partiamo dal concetto di neutralità della rete. Noi abbiamo dedicato un po' di trasmissione, ma vediamo di definirla con Juan Carlos De Martin. Ma significa semplicemente che tutti i bit sono uguali, indipendentemente da dove arrivano, da dove vanno, che tipo di applicazione implementano, che tipo di contenuto implementano. Quindi i padroni del tubo non possono, insomma, possono e come, ma insomma non dovrebbero discernere, non dovrebbero fare distinzione, non dovrebbero far passare i video piuttosto che un altro contenuto, altrimenti insomma il gioco non è più giusto, non è più fair, mi verrebbe da dire. Sì, è così, e per molti anni il problema non si è posto perché tecnologicamente era difficile discriminare tra diversi flussi, tra diversi tipi di bit. È solo da qualche anno che è cominciato a essere tecnicamente possibile e quindi a porsi il problema. Allora, se siamo d'accordo, allora a questo punto sentiamo la scheda che racconta un po' quello che è successo negli Stati Uniti e poi la commentiamo insieme. La battaglia sulla neutralità della rete è diventata di colpo una strada in salita. Anche negli Stati Uniti, dove l'autorità Federal Communications Commission, FCC, per le telecomunicazioni, tentava di fare il pioniere nel mondo a favore della neutralità. FCC, però, si è imbattuta in uno stop. Una corte d'appello degli Stati Uniti ha detto che non può ordinare agli operatori come gestire il proprio network. È una vittoria per Comcast, operatore a cui FCC aveva vietato di rallentare o bloccare alcuni servizi come il peer-to-peer. L'autorità stava lavorando anche perché la neutralità della rete diventasse un diritto dei cittadini riconosciuto per legge. Chissà come andrà a finire adesso. Forse FCC troverà un altro modo per imporre il proprio volere, aggirando la sentenza della Corte. Oppure dovrà scendere a compromessi con gli operatori. È possibile, insomma, che le parti si accordino e trovino alla fine un modo per tutelare sia i diritti degli utenti, sia le esigenze degli operatori di poter gestire il proprio network. Non sarà facile, ma certo è che tra queste esigenze all'apparenza opposte si gioca il futuro di Internet.